excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso... Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti e tutte. Ciao ciao. Chi è? Qui c'è una voce nuova in studio e tra le ribelli. E preghiamo questa voce di presentarsi, così che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possano conoscere un pezzettino in più delle ribelli. Ok, ecco. Avvicinati ciao. Al microfono. Ciao a tutte. Allora, mi chiamo Ivna e sono, diciamo, un'altra migrante perduta a Milano. In verità faccio l'attrice e professoressa, performer, insomma, così faccio parte anche di un pezzettino della storia di ZAM tramite il dopolavoro Stadera. Quindi un caro saluto a tutti i teatranti e dopolavoratori. E niente, sono qua per un po' parlare assieme a queste bellissime compagne e su una tematica che ci sta letteralmente al cuore. Mm-hmm. Però direi che... Ciao Ivna! Ciao Ivna! Tutto per questo? Fantastico! Allora, adesso ascoltiamo gli ultimi secondi della sigla e poi torniamo. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Come promesso, gli ultimi secondi e rieccoci. Eccoci qua. Allora, oggi grande giornata alla radio. Mi sentite? Spero di sì. Così è giustissimo. Ok. C'è una diretta lunghissima, per fortuna, questa domenica di sole. E le ribelli tornano come ogni domenica. E oggi parliamo di questa bellissima festa che ci è toccata questa giornata. È stato un po' un caso che sì, questa giornata cadesse proprio di domenica. Esatto. Perfetto per essere dibattuta. Brava, sì, esatto. Quindi scegliere l'argomento non è stato molto difficile per le ribelli oggi e parleremo di San Valentino. Sì, che poi penso che sia una di quelle feste che suscita emozioni contrastanti. Cioè, da un lato io mi immagino la gente tipo super festosa che vuole festeggiarlo e si sveglia di buon umore, dall'altro gli zombie che odiano questa giornata più di se stessi e iniziano ad insultare gente a caso. Il mio coinquilino è uno di questi, uno dei miei coinquilini, okay. Si è svegliato proprio così. Ottimo caso. A me in realtà crea tanta indifferenza, però accolgo ogni stato d'animo. Sì, no, in Brasile in verità il San Valentino si celebra a giugno, quindi anche per me sono un po' aliena a questo festeggio così esacerbato di cuoricini e palloncini rossi dappertutto. Ok, allora ci dicono che non si sente una cippa perché evidentemente i microfoni fanno un po' schifo da un lato e dall'altro dobbiamo essere anche bravi noi ad adattarci alla tecnologia che fa schifo. Quindi io direi che mandiamo una canzone, così che riusciamo a sistemare questi problemi tecnici che ovviamente non mancano mai, come è giusto che sia alle ribelli, e poi torniamo a noi e iniziamo questo cammino. Va bene? A tra poco. A tra poco. Me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it, haven't I made it clear? Made it clear. Want me to spell it? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. R-I-E-N-D-S. That's how you f- spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No, no. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Rieccoci qui, questa è una canzone molto ribelle, un po' tipica dai ritmi tipici ribelli e anche, vabbè, un po' danzereccia ovviamente. Ci sta, ci sta. Tra l'altro questo è il mio grande debutto, devo dire, devo confessare, perché oggi, per la puntata di oggi, non è stata la nostra amatissima, fantasticissima, meravigliosissima, tutti gli epiteti che ormai la nostra Lady J ha, ma è stata la sua gioia, la sua gioia, la nostra gioia, la nostra gioia di debuttare assieme in queste puntate, esatto, amorose. Allora, assolutamente. Aspettiamo a fare i complimenti, vediamo. Ah, sì, assolutamente, sì, sì, sì, sì, no, no, no, ma infatti farò i conti con me stessa. Va bene. Quindi, tornando a noi, qui intanto si intrufolano, va benissimo. Tornando a noi, Ivna. Allora, cosa ci puoi dire della puntata di oggi, che è San Valentino? Guarda, una tematica veramente che mi fa suscitare delle emozioni forti al cuore, perché non sapevo, ma San Valentino, questa famosissima festa degli innamorati oggigiorno, in verità ha le radici pagane. E poi la nostra grande marketeira del marketing internazionale, la Chiesa, l'ha convertita in festa cristiana. E quindi, diciamo, la verità, come esseri siamo già poliamorosi di base, era una celebrazione del dio della fertilità Luperco. E questa è una grande rivelazione per me, perché tanti festeggi sono stati cristianizzati pure loro, e io pure da latinoamericana sono stata pure cristianizzata, quindi mi fa pensare a tutto questo amore cortese, a questa idealizzazione delle figure, siano maschile che femminile, perché sembra che per la Chiesa non esista niente di mezzo, quindi fa bene anche tornare a queste origini per questionarci su i nostri stereotipi quotidiani, no? Di queste feste che ci sono imposte così sfacciatamente, e da lì abbiamo, penso che anche un bello intervento su questo punto, l'idealizzazione dell'amore e l'amore cortese, che non corrisponde veramente alla realtà dei fatti. Certo, infatti noi siamo qui per svelare tutte queste cose, demistificarle e rompere un po' il cazzo. Letteralmente. Purtroppo l'intervento è un intervento rubato, lo possiamo dire? Certo. Okay. Sì. Abbiamo rubato questo intervento da YouTube, in modo molto sfacciato. E no, in realtà Martina, noi abbiamo l'ospite qui in studio, certo, non stiamo rubando niente a nessuno. È qui con noi. È qui con non noi. Non vi diciamo ci ha concesso. Lo diciamo tra poco. Ditemi se si sente. Allora, ancora non si sente nulla. Devi attaccarlo, forse. Allora, mandiamo una canzone. No, vabbè, sicuramente quello che cerchiamo di fare, mentre Martina pensa al lato tecnico e tecnologico. Allora. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Nella puntata di oggi parliamo di cavalleria e di amor cortese. E sono due realtà molto importanti nella civiltà medievale, anche se noi oggi a volte rischiamo di fraintenderle, di non capir bene cosa hanno significato davvero. E questo perché noi abbiamo un po' perso, quando si tratta di Medioevo, la capacità di distinguere fra le cose che esistevano davvero, che facevano parte della vita vissuta, e le cose che esistevano soltanto nei libri, come immaginario degli scrittori, dei poeti. Ma allora che cos'era la cavalleria, se non era quell'ideale che raccontano i romanzi? E presto detto, la cavalleria è un'altra cosa, è il fatto che nel Medioevo tutti quelli che comandavano, il re, i principi, i funzionari, i loro uomini, erano tutti gente di guerra. Erano tutti militari, gente che andava in giro a cavallo, armata, e che sapeva far la guerra e sapeva farla bene. Tutti, no, non tutti quelli che comandavano. Il Papa, i Vescovi, i Monaci, loro la guerra non la facevano di solito, o comunque non avrebbero dovuto farla. Ma fra i laici, chiunque comandasse era un uomo di guerra. Questo era la cavalleria, la solidarietà fra tutte le persone che contavano, tutti quelli che avevano l'abitudine al comando e possedevano ricchezza, e che sapevano combattere, si consideravano tutti compagni, tutti camerati. E i veri valori della cavalleria non erano la difesa dei poveri o l'amore per la dama, i veri valori erano appunto il cameratismo fra compagni d'arme, la fedeltà al Signore, e poi ancora l'ammirazione per quelli che sanno combattere bene, per quelli che sono forti, che sono coraggiosi. C'è un cronista italiano del 300, bellissimo, si chiama L'Anonimo Romano, che scrive nel dialetto romano dell'epoca e che a un certo punto racconta uno scontro nelle piazze di Roma fra i Colonna e i loro nemici. Ci sono i cavalieri della famiglia Colonna che vanno avanti e i loro nemici che si scontrano con loro. Chi le dà e chi le prende, dice il cronista, e poi dice, là si vedrà chi è figlio di buona mamma. Ecco, questa è la cavalleria, l'orgoglio di far vedere che si è più forti, più coraggiosi degli altri. Questi cavalieri così violenti, la Chiesa cerca di domarli, inventa per loro l'immagine del cavaliere che appunto mette la sua spada al servizio dei poveri. Quando dice poveri, la Chiesa medievale in genere pensa innanzitutto a se stessa, però non funziona molto. L'unico ambito in cui la persuasione della Chiesa funziona abbastanza è con la crociata. Quando cioè si spiega ai cavalieri che possono continuare a fare quello che sanno fare bene, combattere, e farlo però contro i nemici di Dio e salvarsi l'anima. In quello la Chiesa ha successo. E a questi stessi cavalieri i poeti raccontano la bella favola dell'amore cortese, dell'amore per la donna sposata, irraggiungibile, per la moglie del Signore. È un sogno ed è un gioco, tutto molto bello, ma nella realtà non esiste. L'unica cosa che esiste nella realtà è che l'idea di essere ammirati dalle donne, ecco, quello sì, quello fa parte dei valori dei cavalieri. c'è un cavaliere francese del 200, Jean de Joinville, che partecipa alla crociata del re Luigi il Santo. Lui è siniscalco del re, un grande funzionario del re, e racconta questo episodio. Si sta combattendo contro i saraceni, i cristiani stanno perdendo, stanno scappando. Joinville e il conte di Soissons si ritrovano da soli a difendere un ponticello, dietro i cristiani in fuga. Davanti arrivano i saraceni, ma davanti a questi due cavalieri in armatura si fermano e cominciano a urlare minacce, a lanciare pietre, a gettare fango. Joinville e il conte di Soissons sono lì, che non sanno bene cosa fare, anche un po' spaventati. E poi, dice Joinville, il buon conte di Soissons mi disse: «Siniscalco, per la cuffia di Dio!» E qui Joinville si interrompe e dice: «Perché lui usava giurare così? Per la cuffia di Dio, lasciamo urlare questa canaglia, perché ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame». Ecco, l'idea di far vedere alle dame che si è belli, forti, virili, coraggiosi, non sarà l'amor cortese, però quello negli ideali della cavalleria medievale c'è davvero. Buona visione. Ecco, qui non abbiamo visioni. Purtroppo ancora non facciamo televisione, anzi forse meglio, dato che la potremmo iniziare. No. Così. Ma ci accontentiamo della radio. E abbiamo rubato questo stralcio di una puntata di Barbero per farvi capire da dove arriva la festa di San Valentino, perché il contesto è questo, il contesto storico è questo, quindi il Medioevo, la nascita un po' dell'amor cortese e la creazione, come diceva Ivna, di una festa che in realtà era pagana ed era la celebrazione della fertilità, dell'amore, anche orgiastico. Anche poliamoroso, esatto. Esatto. Cioè, che viene ovviamente completamente distrutto dalla Chiesa Cattolica per fare sì che si festeggi un amore romantico, patriarcale, ideale, di coppia, esatto, monogamo e casto, direi. Sì, e lì si intreccia completamente la morale ai costumi, all'amore e al capitalismo e al consumo. La produzione e la riproduzione di tutti questi aspetti. Esatto. Quindi niente, è una giornata fantastica e viva San Valentino, viva l'amore. E quindi con questo chiaramente Martina ha fatto bene a disegnare un po' in maniera un po' nell'immaginazione la cornice dentro la quale si colloca questa puntata e questo intervento e quelli che verranno. E infatti a questo proposito noi avevamo anche, ci siamo anche preparate e abbiamo letto una fanzine che abbiamo recuperato grazie a un'altra ribelle che adesso ringraziamo e salutiamo. Ciao Maya, ciao se Maya. Ci ascolti, ma ci ascolterai ovviamente. E questa fanzine è un'autoinchiesta, possiamo definirla così, fatta dal Sommovimento Nazionale nel 2015 proprio per andare a demistificare tutto ciò che tutti quei simboli, quei valori, concetti che ruotano attorno alla giornata di San Valentino. Quindi a distanza di 6 anni comunque abbiamo visto che ci sono ancora delle grandissime attualità e tantissime tematiche e riflessioni che sono ancora molto vive nelle nostre relazioni, non solamente proprio relazioni che possiamo avere con persone che ci circondano, ma anche con persone lontane, quindi un po' tutta quella... quei concetti socialmente accettati che ancora esistono e che faticano ad essere decostruiti. Esatto, secondo me è un bellissimo manifesto su come un po' questionare questi stereotipi, perché alla fine stiamo parlando dell'amore. San Valentino è magari un tipo di amore che è stato così commercializzato che diventa un sogno, una cosa irraggiungibile. Invece questo manifesto ci apre anche gli occhi per l'affetto. Certo, apre gli occhi, ci fa rendere conto che non esiste solo un tipo di amore, non esiste solo un tipo di relazione legato a quell'amore che lo celebra, ma esiste una molteplicità di relazioni, una molteplicità di amori e ognuno è valido e legittimo. E fare una festa attorno a un unico modello relazionale, a un unico tipo di amore, è discriminatorio. È triste. Ed è triste molto, molto, perché è limitante per le nostre vite e i nostri affetti. E quindi abbiamo deciso di leggervi alcune parti. E, però prima mandiamo una canzone. Gente, ancora non ci crede, ancora non ci crede, che io e la mia signorina stiamo bene insieme, bene insieme. Nella mia mano c'è un fiore, quando voglio un bacio me ne dà di più, dà di più. Abita al piano di sopra e dopo un po' mi dice: Cico, vieni su. Voglio lei perché brucia sempre, è l'unica che è vera veramente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Oh no. E forse c'è troppa gente che amore non ne vuole. Signorina cerca sempre il sole, cerca il sole. Mi lascia andare lontano, tanto poi lo sa che io ritorno qui, torno qui. E non c'è niente di strano se non ha bisogno di convincermi, convincermi. Potrei anch'io fare il presidente, ma sto con lei e non mi manca niente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Oh, bene insieme. Beh, non mi aspettavo questo che la canzone troncasse così in questo modo. Ah, è colpa della canzone. Sì. Martina molto simpatica, benissimo. Allora, io adesso inizio a leggere una brevissima introduzione e poi andiamo avanti con gli interventi preparati, ovvero sono delle letture, degli estratti da questa fanzine. Questa introduzione della fanzine dice così: rifiutiamo l'immaginario romantico perché ci rendiamo conto che questa narrazione del sesso e dell'amore ci rende infelici. Quando siamo in coppia ci spinge a sviluppare dipendenza emotiva e a isolarci affettivamente, creando terreno fertile per piccole e grandi violenze. Quando la coppia finisce ci rende la separazione ancora più dolorosa del necessario per via della solitudine, che è la naturale conseguenza dell'isolamento in cui ci eravamo chiuse e chiusi e del senso di fallimento. Quando restiamo single troppo a lungo ci fa sentire inadeguati, inadeguati e incomplete, incompleti. Se poi, oltre a non avere un compagno o una compagna, non abbiamo nemmeno un lavoro, la mancanza di riconoscimento sociale è totale e ci rende più ricattabili che mai, anche nella ricerca di un'indipendenza economica. A seguire, diffondiamo piacere, ossia intimità, affetto e cura. Oggi, ma proprio oggi a San Valentino, vogliamo affermare che non abbiamo bisogno di biancheria di pizzo o di offrirle una cena costosa per godere dei nostri corpi, che non abbiamo bisogno di raccontare i nostri affetti con il linguaggio dell'amore coniugale per sentirci in diritto di viverli, che non stiamo aspettando di incontrare la persona giusta per amare e sentirci amate e per sentire che la nostra vita è completa, che non abbiamo bisogno di convivere per legittimare le nostre relazioni d'amore. Possiamo e vogliamo scambiare piacere, affetto, intimità, cura e impegno a starsi vicino in varie combinazioni e dosaggi con le nostre compagne e compagni, amiche e amici, con i nostri coinquilini, con gente che incontriamo per caso, con uno o più persone con cui abbiamo deciso di condividere più o meno gradi della nostra vita attuale e dei nostri piani per l'immediato futuro. Non abbiamo necessariamente bisogno di concentrare tutte queste cose su un unico rapporto, per carità. Le nostre reti di affetto sono molteplici ed è bene che siano di questa forma, intergenerazionali, collettive, molto internazionali e solide. La precarietà nuoce gravemente alla salute sessuale. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno per godere appieno del sesso e dell'amore è avere tempo, energia e spazio per farlo. Non essere vampirizzate dal lavoro, dalla ricerca di lavoro o dalla povertà. Avere una casa. Non dipende economicamente dai nostri genitori. Essere supportate e supportati dai servizi efficienti e da una responsabilità collettiva nella cura di eventuali bambini o bambine. Non essere censori che pontificano sulla serietà, sulla legittimità o sulla completezza delle nostre vite sessuali e affettive. In altre parole, quello di cui avremmo davvero bisogno per amare e per scopare in piena libertà è un reddito di autodeterminazione per tutti e tutte, sganciato dal lavoro. Pensavo fosse amore, invece era il capitale. Fin da piccoli e piccole ci viene insegnato che per essere felici bisogna prima di tutto trovarsi un fidanzato o una fidanzata. Cioè, ci sentiamo continuamente ripetere che la coppia è portatrice di futuro, stabilità, maturità, patrimonio e produzione, ossia gli ingredienti magici del capitalismo. In effetti, che siamo etero o omosessuali, il modello di vita di coppia che viene proposto ci spinge a lavorare e consumare con più dedizione e passione. Grazie Ikea. Nella precarietà diffusa e nella crescente competizione che acuisce le disparità basate sul genere, la classe sociale, l'appartenenza etnica, l'aspetto fisico e l'età, ci illudiamo che l'unico rifugio sicuro sia proprio la coppia. Naturalmente, se ci sentiamo stanche o stanche, depresse, è solo perché non abbiamo ancora incontrato la persona giusta. E quando la incontreremo, tutto andrà bene. E non raro il capitale ci fa sentire proprio così, che manca proprio un pizzico di qualcosina per questa cosiddetta felicità. Così, il mito dell'amore romantico, oltre a impoverire la qualità della nostra vita sessuale e affettiva, produce anche individui più docili allo sfruttamento e alle ingiustizie. Got no I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Beh, non potevano non esserci anche Queen tra di noi, che ovviamente noi salutiamo perché sono qui con noi, abbiamo appena finito di ridere e scherzare insieme a loro, certo. Tutti quanti, tutti. Se ci fosse stata anche la Merku, dall'altro mondo, forse avrebbe anche cantato. Sì, infatti, vabbè. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Vuoi salire? Certo. Esatto, siamo qui. Beh, allora, intanto abbiamo letto alcuni degli estratti che abbiamo preparato e sono stati molto sintetici, ma anche molto evocativi. Hanno spaziato da un discorso economico legato al tempo, si è affrontata la questione anche della cura, della salute sessuale, legata sempre alla precarietà, al capitalismo, a quanto quindi questa festa non è solo una festa, ma è un prodotto di significati, proprio prodotto, forse anche la parola migliore e più azzeccata per descrivere questa festa. Che veramente rimanda subito a che cosa significa festeggiare San Valentino. Produrre. Produrre, esattamente. Produrre, produrre e riprodurre, come dicevamo anche prima, tutta la rappresentazione sociale che attualmente c'è, no? Quindi tutte le dinamiche che esistono, relazionali, modelli egemonici che esistono e invisibilizzando tutto il resto. Come se non ci fosse una diversità in questo mondo, vero? Esattamente. quindi secondo me è anche utile riuscire a che già comunque questi estratti sono molto terra terra, cioè raccontano di esperienze, perché ricordiamo che questa è stata un'autoinchiesta di un insieme di collettività, di una rete di collettività, e quindi già parte da una base di vita quotidiana, esperienze vere e proprie, no? Sicuramente da queste rimandano ad altrettante esperienze che magari abbiamo vissuto noi, che magari non abbiamo sicuramente partecipato a questa autoinchiesta. A me viene in mente una cosa che vivo indirettamente da facente parte di forse un'altra generazione, non saprei dirlo, ma quello che riesco a testare con mano è il fatto che esiste tutta una categoria di trentenni che vive una frustrazione e dello stress proprio anche emotivo quando si tratta di relazioni amorose. Persone, compagni e compagne che hanno riconoscono la varietà dei modelli relazionali, il fatto che esista questa molteplicità e che l'amore assume forme diverse, ma ancora vivono la difficoltà nel fare i conti con questa cosa, no? Col fatto che sono single, non hanno un partner, non si trovano in una relazione di coppia esclusiva amorosa, e questo gli genera un senso di frustrazione perché il modello relazionale dominante, egemone, invece glielo impone, gli dice che per essere felici in realtà dovrebbero averlo, no? E credo che non sia neanche sia una cosa di importanza il fatto che questa cosa venga vissuta così male, perché viene vissuta male. Poi ovviamente è un discorso che non va a generalizzare, ma è un discorso che ha delle fondamenta e studia le esperienze, le vite, le biografie delle persone, no? e questo senso di frustrazione è legato a questo, e perché quello a cui si tende o si sa che si deve tendere per essere felici e appagati in questo mondo e avere un riconoscimento sociale è proprio quello che si festeggia oggi nel giorno di San Valentino. Quindi una vita amorosa che è fatta di una coppia eterosessuale e normodotata e tendenzialmente anche agiata o di classe sociale media. Ed è una cosa che io soffro empaticamente, non avendo ancora, non essendo ancora in quella categoria di età. Mm-hmm. E non lo so, questa è un po' una riflessione che da un po' di tempo mi sto facendo e in un certo senso mi fa star male. Certo. No, perché ci fa stare male a tutti. Penso che avere un po' questa categorizzazione e dover seguire uno standard predeterminato ci frustri, perché siamo persone, come individui siamo tutti diversi, quindi non solo lo Stato ma la società dovrebbe riconoscere questa bellezza di poter essere diverso, no? Cioè di poter esprimersi amorosamente, affettivamente, della forma che ben vogliamo, no? Certo, poi questa cosa si relaziona anche all'aspetto economico, come già abbiamo letto, perché chiaramente a 30 anni, ma anche a 20, quando uno ha il bisogno... Sì, cioè, perché tu dici 30 perché siamo a casa fino ai 30 anni, ma potrebbe avvenire anche prima. Sì, sì, cioè in un qualsiasi momento della biografia di una persona, quando si vuole costruire la propria vita in autonomia, questa cosa se non si ha un reddito non si può fare, e quando il reddito non è abbastanza comunque diventa complicato, e quindi anche lì la necessità di dover avere due redditi almeno, e quindi c'è anche tutta questa costruzione di prezzi, domanda offerta, che si fonda sulla coppia. Sì. Affitti che sono impeditivi, sicuramente a Milano, che sono davvero proibitivi, esattamente, sì, sì. E quindi tutto è... Il monoreddito non esiste, cioè non puoi fare nulla col monoreddito, assolutamente, cioè tu devi essere in coppia, se non sei in coppia è tutto molto difficile, ci sono delle persone che fanno finta di essere in coppia per prendere una casa piuttosto che una stanza, o che invece non... Cioè, da sole non potrebbero trovare. Contando il fatto che anche non esiste un welfare state, il welfare state sono le famiglie, cioè il cuscino salvagente che cattutisce la mancanza o la perdita di lavoro, e quindi anche la coppia e in senso lato la famiglia di sangue tappa questo buco enorme che non permette l'autodeterminazione di fatto. Sì, viviamo purtroppo in una società che non riconosce, secondo me, questo essere individuo, perché dobbiamo sempre rincorrere a un ideale di qualcosa o di qualcuno. Non possiamo essere e esprimerci come essere affettivi, e quindi non ci prendiamo cura di noi stessi perché siamo troppo occupati a lavorare, non prendiamoci cura dell'altro perché siamo troppo occupati a campare noi stessi. Quindi è una società che ci spinge di una forma brutta anche a un individualismo molto esacerbato, e da lì sei davanti a delle scelte come l'affitto, dove vivere, come vivere, e sembra che non ci siano date queste scelte. Questo è triste, rende l'esistenza triste. Sì, in più c'è tutta questa parte del capitalismo, cioè nel senso che è una festa poi per chi l'abbiamo detto. Ma non è una festa in cui la gente festeggia, appunto, cioè è una festa in cui la gente deve o produrre o comprare, e di conseguenza è qualcosa su cui prima il papato e poi il capitalismo ci ha messo lo stampino. Quindi cose che costano di più, prodotti che costano di più, ristoranti che costano di più, gadget, cose inutili, per celebrare qualcosa che poi, che cos'è? cioè è nulla se dall'altra parte non c'è veramente una situazione di welfare, di cura, di gestione degli infanti, di gestione degli anziani, che è quello l'amore, no? Che poi crea le relazioni umane, l'affetto, le cure. Però cos'è? La vetrina è San Valentino, cioè la vetrina del capitalismo è festeggia oggi ed è solo quello che importa. Sì, poi domani ritorni nella tua normale esplorazione quotidiana. Okay. No, ma poi ovviamente a questo tema, cioè dalle tue parole subito mi è venuto in mente che così quello che hai descritto tu, anche l'invisibilizzazione di tutte le forme di violenze che vengono perpetuate giorno dopo giorno, e che il giorno di San Valentino magicamente è come se non esistessero più, vengono perdonate, vengono messe accantonate, messe in secondo piano, e quindi è proprio una forma di festeggiamento che non si festeggia niente, nel senso che non si problematizza ciò che c'è da problematizzare, perché l'amore non è violento. No, assolutamente, ma figuriamoci. No, tra l'altro l'amore di coppia, cioè. Ah, certo. È uno dei grandi, evidentemente uno dei grandi problemi della nostra società. Ma prima di continuare a parlare, facciamo un break sonoro, vediamo se Joy è stata brava anche questa volta. Allora, questa canzone me l'hanno suggerita. Ah. Me l'ha suggerita una persona qui in radio, che magari poi ha voglia di dire... Allora è bellissima. Di dire dopo due cose sul perché mi ha consigliato questa canzone. Va bene. Vai che cerco su internet. Na maga ike a o malama, mai habai i ake a i kawai. Hey, rua, rua, rua. O kala kawahe inoa, o kapua mai ole itala. He pua mai la ika mauna. Ke kua hivi o maunakea Te aru mai la i kila wea Malama lama i wahine kapu Hakaruna o ue karuna I ka pali kapu o ta au ea He ea mai ke ali i kia manu Ua we hi ka huru o ta mamo Kapu anani a o vai Oh, kalaka wa hei noa Kalaka Oh, kalaka wa hei noa Kapua mai lai kala Epa Kapua mai lai samauna Ike kua hivi oa Kaika mahine, mai iloko ika hula Mahalo nui a ke ali I wahine Oli ni hulani o ka bohiku Hea mai ke ali I ki a manu Hua wehi ka hua kumamo Ka tua nani a o Hawaii O ka la ka wa hei no wa Hilo hilo kalika hawa Tsunemi Ottimo finale. Allora, chi di voi vuole raccontare il perché di questa canzone? Allora, l'ho scelta io, faccio outing. L'ho scelta io, l'ho presa da Lilo e Stitch, perché è una storia innanzitutto d'amore tra un alieno e una bambina, di fatto. Quindi è una cosa strana, no? Per i cartoni animati. Un amore diverso, dove c'è anche l'elemento della rabbia, che viene accolto in qualche modo ed è una famiglia senza genitori, ma comunque con altri alieni e una sorella. Quindi a me, quando ero piccola, mi ha fatto impazzire questo film. Io amo le animazioni, raga. E questa canzone in realtà l'ho dedicata a Ivna perché parla della natura. Ma che bello! Sì, della terra. E dato che Ivna comunque oggi mi aveva fatto capire che per lei invece l'amore si basa anche sull'amore che noi dovremmo dare alla terra, e che è il rispetto per la natura, eccetera eccetera. Quindi ho cercato delle canzoni che parlassero di questo. Quando mi sono imbattuta in questa canzone l'ho scelta subito perché non hai resistito. Sì, era la ciliegina sulla torta. No, guarda, veramente è una canzone che mi fa battere il cuore, perché le animazioni, secondo me, sono delle tipologie di film che, cioè, per non dire l'uomo adulto, ma gli esseri umani adulti dovrebbero vedere più spesso, perché spesso vanno a riconoscere degli archetipi, appunto, di diversità, che non sono quelle che vediamo appunto nei commerciali, in giro per la TV. Cioè un alieno che deve vincere la rabbia verso se stesso, verso il mondo, nei confronti del mondo, è un essere arrabbiato. E secondo me, diciamo, in tante tradizioni di popoli originari c'è questo amore per la condivisione, cioè come un amore che non è del tutto esplorato per San Valentino. E praticamente questa canzone parla un po', per il linguaggio sudamericano, mettiamolo così, sulla la fertilità, appunto, ma anche sull'abbondanza di Pachamama. Cioè sono dei concetti che sono molto profondi, visti in un'animazione sembrano quasi innocui, però hanno un effetto fortissimo su di noi. E niente, penso che quando abbiamo parlato per questa puntata ci siamo chieste, ma l'amore soltanto verso un qualcuno, ma non un qualcosa che sia anche più grande, che ne so, sul fatto di nutrirsi bene, per fare anche una metafora, no? O comunque questa sorella che si prende cura, come Lilo e la sua sorella più grande, non c'è una figura patriarcale che gestisce la casa, anzi, loro in quell'animazione devono convincere lo Stato che sono buone abbastanza per avere una famiglia, cioè con la F maiuscola. Quindi cominciamo il nostro prossimo San Valentino, la serata di San Valentino, con a quale amore voglio dedicarmi. Bello. Assolutamente. Senza lasciare che questo amore venga preso, censurato, categorizzato e fagocitato dal capitalismo. Esatto, che fagocita tutto l'intero femminismo. Su questo bisogna stare molto attentissimi. Beh, allora, io così non mi viene neanche la parola, però va bene così lo stesso. Ce la posso fare. No, volevo mettere un altro paio di canzoni, visto che l'ho scelte tu. Esatto, l'ho scelte con tanta cura e amore, e sì. Non giudicatemi, io spero che piacciano. E l'amore non giudica. Grazie, Ivna. E quindi in realtà io adesso vi farei ascoltare Pelota di Kruang Bin. Yeah. l'ultima fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola, le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per beh, non potevo non metterla. Cioè, io mi scuso con tutti e tutte quelle che ci hanno ascoltato, perché immagino che di domenica alle 18:20 sia un po' faticoso ascoltare questa canzone, però ci tenevo davvero troppo. Oppure il momento giusto per ballare con un bicchiere bello di vino in questo freddo. Un tango. È un tango. È un tango autocelebrativo. Va bene, quindi vabbè, questa era Amandoti dei CCCP, per chi non la conoscesse, e direi che a questo punto possiamo continuare con i pezzi che abbiamo selezionato della fanzine. Del sommovimento anale. Nazionale. No, comunque c'è anche il blog per chi ci ascolta, se vuole andarlo a vedere. Perfetto. Vabbè, quindi... procedo o vuole procedere qualcun altro? Procedo io, mi fanno cenno che procedo io. Fatti una famiglia, altro che welfare. Ci hanno abituati a pensare che la logica continuazione di un rapporto di coppia serio sia farsi una famiglia. In questo modo ci spingono a riprodurre all'infinito i modelli sociali esistenti. L'immaginario romantico produce l'idea che una certa forma di relazione e un certo stile di vita siano più validi e degni di altri, creando gerarchie e discriminazioni fra le persone attraverso mille microscopiche micropratiche sociali, oltre che nella distribuzione delle ultime briciole di welfare pubblico. Un welfare che presuppone che il suo utente tipo sia sempre membro di una famiglia mononucleare o di una coppia in quanto futura famiglia, e comunque che si pone solo come misura integrazione al lavoro di cura svolto dalle donne e al supporto economico di nonni e genitori. Sì, quindi effettivamente Lilo e la sua famiglia non entrerebbero in questo no, standard, non purtroppo. Non credo. Ok, vado avanti. Vai tu. Vai. Vai, vai. Vabbè, allora decolonizziamoci. No, vai, se proprio devo. Ma se proprio devo. Sì, vabbè, è un po' la mia pallina, però decolonizziamo e decolonizzati anche tu, perché la lotta all'amore romantico, così come l'hanno insegnata, è parte del nostro lavoro e anche della Radio Zam, soprattutto per le ribelli. Per la nostra costruzione di un welfare queer dal basso e dalla nostra lotta all'eterosessualità obbligatoria, al binarismo dei generi che basta, alla normatività della riproduzione, al controllo dei corpi, ma un controllo veramente funebre, e dei desideri da parte del mercato del lavoro e del consumo. Al capitalismo rispondiamo creando nuove forme, oppure forme di neomutualismo, cura e aiuto che scardinano l'individualismo e il modello riproduttivo della famiglia nucleare, che sostengono le nostre forme di sabotaggio dell'etica del lavoro, del merito e della produttività. Smettiamo di riprodurre un modello di vita che ci rende ricattabili e soprattutto isolati. Noi autoproduciamo, noi liberiamo la creatività invece di riprodurre in serie. E questo è il manifesto del sommovimento nazionale che abbiamo appena letto, certi pezzi per voi. Sì, tra l'altro volevo concludere questa lettura con un altro pezzettino e si intitola Il valore politico. Di conseguenza, nel senso, dopo tutto quello che abbiamo letto, decostruire la normatività della coppia e la dittatura dell'amore romantico, parlare di altre intimità, rendere visibile che c'è vita oltre la coppia, dire che non avere un partner non vuol dire per forza condurre una vita solitaria e individualista o essere figli a vita, dire che le nostre vite sono estremamente ricche di affetto, di piacere, di solidarietà e anche di responsabilità, sebbene non codificata nei doveri convenzionali della famiglia nucleare o della coppia monogama totalizzante, è un atto politico. Parlare non per idealizzare le altre intimità e farne un modello, ma per discuterne, per vedere cosa funziona e cosa non funziona e come possiamo farlo funzionare meglio. Guarda, io applausi. Adesso applausi. Applausi, grazie a questa movimento. Esatto, per questa autoinchiesta e che ci ha fatto molto riflettere sulla vita, una domenica di San Valentino molto riflessiva. Molto politica, perché per scardinare questo bisogna reintrodurre una cosa che in tanti anni a questa parte sempre è stata più carente, il discorso politico, che è un discorso di critica. Sì. Non ci servono le feste così. Diciamo, esatto. Gioia. Non ci servono, specialmente se sono feste che idolatrano, non so mai dove va l'accento. Manco io, non ti preoccupare. L'amore romantico patriarcale. Idolatra no. Esattamente. Va bene, allora, visto adesso un attimo che ci dobbiamo ricaricare, risintonizzare. È una scusa per mettere un altro. Esattamente, esattamente. Vabbè, Martina svela tutti i miei trucchi e va bene. ma ecco a voi: I Was Dancing in the Lesbian Bar di Jonathan Richman. Dancing at a nightclub one Friday night. And that nightclub bar was a little uptight. Yeah, I was dancing all alone, a little self-conscious, when some kids came up and said, for dancing, come with us. And soon I was dancing in the lesbian bar, oh, oh, I was dancing in the lesbian bar, ooh. I was dancing in the lesbian bar, in the industrial zone, I was dancing with my friends and dancing alone. Well, the first part, things were alright, but in this part, things were Friday night. In the first part, things were just alright. This part, things were Friday night, and I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh, ooh, ooh. Well, I was dancing in the lesbian bar way downtown. I was there to check the scene and hang around. Well, the first bar, things were stop and stare, but in this bar, things were laissez-faire. In the first bar, things were stop and stare. In this bar, things were laissez-faire. And I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh, ooh, ooh. In the first bar, folks were drinking sips, but in this bar, they could shake their hips. In the first bar, they were drinking sips. In this bar, they could shake their hips. And I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh. Rieccoci qui. Allora, dopo la canzone Asblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl acchittando la tecnologia più avanzata per fare, per poter fare la nostra domandina ribelle. A questo proposito stiamo chiamando una persona. Ivna, è tutto ok? Sì, è tutto ok. È tutto ok, risponde Ivna. Va bene. Vediamo se il telefono è connesso. Sì, ma siamo in più persone. Ecco, ciao! Ciao Laura! Laura, allora, tu sei in diretta sulle Ribelli, il programma radio transfemminista della Radio ZAM. Lo sapevi? Ah, ok. O è stata una sorpresa completa? È stata un'imboscata. È stata proprio un'imboscata, esattamente, perché c'è un altro programma radio che si chiama Zona Rossa e loro hanno la brutta abitudine di intrufolarsi nelle vite e nella quotidianità delle persone per rompergli le scatole e fargli domande inopportune nei momenti meno opportuni. Questi non siamo noi, però. Oggi, no, non siamo noi, ma oggi riprendiamo un po' questo stile. Anche perché devi sapere che la giornata di oggi è un giorno importante non solamente perché c'è San Valentino e di cui abbiamo già discusso fino ad ora criticandolo e demistificandolo, no? Ma è un'altra giornata importante perché la radio oggi ha aperto un po' i microfoni e a tutti i programmi radio per farsi un po' conoscere anche da persone nuove e quindi calzapennello chiamarti perché io non ti conosco. Ecco, Laura, ci ascolti? Sì, vi ascolto. Ok. No, scusami per questo, diciamo, questa chiamata così all'improvviso, però abbiamo una domanda anche seria da fare, perché stiamo, innanzitutto è la mia prima volta in radio, quindi mi sento anche... di chiamarti per far capire quanto bello è questo programma e raccomandarlo a tutte le menti pensanti di questa bella Italia. Poi, sicuramente Laura adesso ti odierà a morte, non sarete mai più amiche per questa cosa. No, vabbè, un po' per rompere il ghiaccio, raccontaci un po', Laura, come cosa stavi facendo e perché, ma innanzitutto volevamo introdurre la grande domanda. Esattamente, noi vabbè, ovviamente ci siamo intrufolate così nella tua santissima domenica per farti una domanda che riguarda anche il tema di oggi, quindi la critica all'amore romantico patriarcale, ma la domanda non è su questo, ma la domanda vuole essere: perché San Valentino fa schifo secondo te? E puoi includere anche l'odio verso il patriarcato in questa in questa risposta. Io non festeggio solitamente San Valentino, quindi per me fa schifo perché impone un modello di, diciamo, romanticismo che non, in cui io non mi identifico. Perfetto. Quindi... Guarda, sei a tema proprio, veramente hai ridotto tutte le nostre discussioni in una frase. Sì, effettivamente potevamo chiamarti subito e baci, abbracci. Metterti in loop tutto il tempo. Esattamente. Vabbè, allora ti ringraziamo, ma hai voglia anche di motivare, di raccontare un po' più nel dettaglio o stavi davvero facendo altre cose più importanti di questa? Beh, io stavo preparando un esame, ma... No! Sì, quindi... però dovevo... sto rileggendo Walter Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, quindi mi stavo ricordando quanto io detesti quest'uomo. E quindi sì, anche distrarmi dal mio odio inverecondo per, appunto, un uomo bianco di mezza egocentrico, oh, va bene. Aspetta, ti prego di ripetere perché abbiamo perso un po' la connessione, però ritengo che queste parole vadano ridette. Perché odi? Ok, aspetta. Un uomo, no, vabbè, sì, di mezza età, egocentrico, che scrive per se stesso, evidentemente. Quindi, cioè, lui non scrive per comunicare ad altri, ma scrive per glorificare se stesso, quindi non mi sta particolarmente simpatico. Allora, direi che così passerai l'esame. Sì, no, infatti io sono un po' preoccupata, io non devo dire quello che penso all'esame, questo è il fatto. No, triste verità. E cosa stavo... Aspetta, mi sono un attimo persa. Ah sì, perché devo come si dice? Non lo so, per quello che mi riguarda, cioè quello che per me è romanticismo non è una cosa, cioè è una cosa fatta su misura per me. Credo che uno dei gesti più romantici che un uomo abbia fatto per me, mentre stavo preparando la domanda per una borsa di studio, cioè mi ha suonato alla porta, mi ha dato in mano i libri che non gli avevo chiesto e di cui non avevo bisogno, cioè non gli avevo ne avevo assolutamente bisogno, non sapevo neanche dell'esistenza di quei libri, ma erano assolutamente perfetti per quello che stavo scrivendo. Lui è arrivato, mi ha dato i libri, mi ha salutata e mi ha lasciato in pace. Questa è stata una delle cose più romantiche che abbiano mai fatto per me. No, infatti ho sospirato qua, perché è questa la cosa, no? Sei veramente a tema oggi, l'amore e il romanticismo vanno veramente rivalutati in tutte le sue categorizzazioni e stereotipate, va? Quindi poi, sì, che uno mi regali dei cioccolatini scadenti o delle rose, a me non interessa, cioè io non me ne faccio niente e non dimostra che... una persona mi conosce, quindi sì, boh, non lo so, mi lasciano così, sono cose che non capisco, sono delle, non lo so, delle convenzioni sociali che mi sfuggono e non, quindi non mi stimolano nessuna risposta di piacere o di sì, di piacere, insomma. Tutto sì, molto chiaro. Poi vabbè, non lo so, poi vabbè, San Valentino comunque è una cosa molto commerciale per, come si dice, per spingere a comprare. È stata fatta, non mi ricordo da che papa, vescovo o qualche religioso, sì, gelato, per sostituire, come il giorno di oggi. Esatto, sostituire, e come si chiamavano, le precaurie, una cosa del genere. Sì. Guarda, quindi per togliere... La prossima volta ti chiamiamo, vieni a sostituirmi. Beh, assolutamente sei invitata. Quindi... a tutte le prossime puntate delle Ribelli. Sì, puoi anche parlare male del tuo esame se vuoi. Esatto, sei libera. O dei professori. Professesse. No, vabbè, dai. Cerco di rimanere focalizzata. Ok, Laura, grazie mille, scusaci del disturbo. Ivna, te la farò pagare. Dopo, esatto, me l'aspetto, me l'aspetto, però il tuo contributo era troppo prezioso per essere perso in questo giorno. Quindi ti ringrazio tantissimo e niente, hai veramente risposto alle nostre inchieste di una forma anche complessiva, ecco. Cioè, veramente avremo il nostro podcast e vedrai quanto eri presente anche senza esserlo. Grazie. Grazie mille. Ciao, dai. Laura. Buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Va bene, ragazze. Allora, ascoltiamoci una canzone e poi per le nostre ascoltatori e ascoltatrici abbiamo già individuato la prossima persona a cui rompere e quindi buon ascolto. Andava sul rogo. Bene, adesso tremate perché stiamo facendo partire la chiamata proprio in questo istante. Sentite come sta suonando. Accio, attenti. È il vostro telefono che squilla? Ma chi lo sa? Un altro. Pronto? Niente. Che è successo? Sembrava avesse risposto. La riproviamo. E al massimo. Pronto? No, niente, non lo so. Non so cosa sta succedendo. Oggi non vuole dichiarare il nostro amore. No, stavo provando su WhatsApp. Adesso provo con una chiamata normale, classica, e vediamo se funziona. Ah, ecco qua che richiama. Pronto, ciao Marta! Ehi, hey, ciao! Sai che ti trovi sulle Ribelli in diretta? Ah, ma così a tradimento? Ciao Marta! Oggi sono grazie, così. Ragazzi! Scusa, eri impegnata? No, sta lavorando. Ma è una gioia! Ah vabbè, per cui è una telefonata così piacevole. Ma infatti... Grazie! No, grazie a te! Ovviamente ti faremo sentire meglio, saremo rapidi e indolori, perché vabbè, oggi lo sai, è San Valentino, giornata un po' del cazzo. Happy Valentine's! Esatto, e niente, ovviamente noi abbiamo già... discusso della tematica, abbiamo cercato di far emergere i punti più critici di questa giornata. E a questo proposito, adesso stiamo concludendo la puntata. Per farti una domanda seria, eh? Esatto. È tutto, una donna che serietà. Esatto, una donna serissima. Sono molto seria. Non scherziamo. Che professional. Ma infatti poi ci sarà da ascoltare il podcast e secondo me, cioè, ne sentiremo delle belle. E specialmente sono molto curiosa della tua risposta a questa domanda. Sei pronta? Vai, metto le cuffie. Ok. Allora, la domanda è: perché San Valentino per te fa schifo? Ah, vabbè, una domanda facile, allora. Pensavo peggio, ragazze. È la nostra serietà. Allora, perché San Valentino per me fa schifo? Perché celebra l'amore romantico e ci ha rovinate dal giorno che siamo nate. Perché, vabbè, ci sarebbero tante robe da dire, no? Quella più facile è la chiave consumistica del capitalismo che tutto mangia, ma poi quella un filo più seria è che San Valentino è proprio la rappresentazione esatta dell'amore tossico. Eh sì, sono d'accordo. E ci abbiamo avuto un sacco di esempi, no? In questi giorni, dal fioraio che dice, che fa body shaming dicendo non le regalare i cioccolatini che diventa grassa, regalare i fiori, a tutta una serie di descrizioni dell'amore come Sturm und Drang, che se non è totalizzante e ipergeloso, possessivo, esclusivo, e non è amore. E poi sappiamo che in verità queste sono tutte le caratteristiche prime dell'amore violento. Certo, ecco. Tra l'altro proprio su questo si è riusciti un po' a farlo emergere, per quanto fosse nelle nostre corde e capacità, dalla lettura di alcuni pezzi di un'autoinchiesta del suo movimento nazionale, che risale sì, al 2015. Che... sì. E anche l'amore consuma. Esatto, esatto, di quanto questo modello stereotipato di monogamia comporti poi anche, come dicevi bene tu, a isolarsi dalle altre relazioni, dagli altri affetti, perché tutto è rivolto, l'esclusività è rivolta a un'unica priorità, che è quella della del controllo. Esatto. Quindi sì, niente fiori, niente cioccolatini. Oggi. Sapete, non ti ho sentita, niente, sei molto lontana. Niente fiori o cioccolatini. Ma allora, noi, vuoi che ti racconti la nostra giornata? Noi intanto siamo in una situazione di famiglia allargata, perché viviamo oltre a quello, come dire, il nostro nucleo tradizionale, in questo momento viviamo con un'amica, con sua figlia, che e insomma, evviva le famiglie allargate. Sì. E credo che nessuno durante la giornata di oggi abbia nominato San Valentino. Manu, te lo ricordavi che oggi è San Valentino? Niente, vuoto, horror vacui. se ne è accorta dai social la Manu, e no, credo che nessuno abbia mangiato dei cioccolatini, tantomeno portato dei fiori. La Manu sta mangiando dei gommosi, io ho lavorato tutto il giorno, Ricky è uscito a giocare con Edo, adesso abbiamo un esercito di bambini che grida per casa, e, niente cene romantiche, ma forse adesso che ce l'avete ricordato, una cena romantica per il nostro un bicchiere di vino. Per la famiglia per allargata. Per la nostra famiglia allargata e per l'amore sano e non tossico, magari ce lo beviamo. Però no, scusate, adesso vado anche da mio marito. Ricky! Cazzo, San Valentino! Niente, non ha neanche reagito, va bene. Guarda, veramente bellissimo vedere questa decostruzione di questo amore ideato, perché ci fa bene. Ah, vabbè, poi non è che l'amore non esiste, esiste, altro che... Certo. Però è un'altra roba. Eh sì. Va bene, Marta, grazie mille. Va bene, grazie per l'imboscata. Ti lasciamo il tuo bellissimo lavoro. E al vostro bicchiere di vino. Al vostro bicchiere di vino, diciamo. Adesso stappiamo una bottiglia, sì. Per celebrare questo amore sano che c'è bisogno di costruire. Esatto. Anche perché ormai è l'orario di aperitivo, quindi sì. Marta, devi godertelo e concederti questo momento di autoamore. Cioè, scusate, super rido perché la Manu non sta assolutamente capendo che cosa sta succedendo. Salutacela intanto. Non mi rivali di Zanni che ci hanno fatto l'imboscata. Va bene. Un abbraccio forte. Anche a voi. Un abbraccio e grazie del contributo. Ciao Marta, ciao, grazie baci. Mille. Ciao. Rapido indolore perché povera Marta stava lavorando di domenica. Mannaggia il capitalismo. Anche per questo motivo. Ragazze, cioè, ormai è ora di chiudere. È andata. Sì. Quindi mettiamo una bella canzoncina. Sì, ne ho preparata una proprio per concludere in bellezza questa puntata. Va bene. E non vi dirò il titolo, non vi dirò neanche l'autrice, cioè la cantante. Imboscata. O il cantante, imboscata anche qui, ma sicuramente apprezzerete. E quindi vai. Ciao dalle ribelli. A domenica prossima. Alla prossima alle domenica. 17 e i canali, beh, non li abbiamo ricordati per niente questo giro, ma ci sono i podcast ovviamente che potete ritrovare, tra cui anche la puntata di oggi sul sito di ZAM, mm-hmm. Nella sezione delle ribelli oppure su Archive. In ogni caso ci abbiamo anche la pagina Instagram, ci trovate lì e lì trovate anche i link utili per raggiungere e riascoltare i podcast. Grande Ivna, grazie mille, grazie dell'invito. Grazie a tutte le ribelli e che brava Gioia per essere stata un'ottima DJ. Complimenti. Grazie. Dovresti farlo più spesso. Sì. Mamma mia. No, non è proprio da Martina fare questo tipo di complimenti. Ma oggi è l'amore verso il mondo, raga. Esatto, verso le amicizie, quindi ogni tanto si fa uno sgarro. Va bene. Sono va bene. No. No. Sai che vi voglio bene. Non sì. Credo che si sia sentito perché tipo stai giocando con il microfono. Mi avete dato il microfono scemo, già ho la voce bassa, cioè. Hai ragione anche tu. Vabbè, vi salutiamo e rimanete connessi, forse ci saranno delle ottime canzoni anche dopo, immagino. Quindi un abbraccio. Grazie mille e buona celebrazione dell'amore verso se stessi in primo luogo e poi verso il mondo. Buon ascolto. La da da di da da da da, la da da di da.